Eccoci qua, quanto ci piace chiacchierare a noi girls, e quindi le 18, 4 minuti, allora io, sì, lo studio si riempie, io do il benvenuto a Chiara Davoli, benvenuta. Ciao, ciao. Perché come vi accennavo siamo qui per presentare il vostro, perché siete in due, Chiara Davoli e Vadella Tarditi, il lavoro diseguale, voci, esperienze e immaginari delle donne. Insomma, io dico che lo presentiamo, ma insomma ormai è un po' che gira questo libro, è stato presentato tanto, credo proprio perché affronti questioni che non sono mai state affrontate dalla pandemia in poi, devo dire, secondo me, anche da noi, questo noi maiestatis che coinvolge un po' no, questa massa che siamo. E credo importante per questo e perché appunto forse quella fa parte anche un po' delle crepe che ci siamo portati dietro dopo il Covid. Io credo che il Covid abbia creato un po' un piccolo post-traumatico in tutti e tutte, e è stato difficile ricominciare in tante cose, ma insomma poi ne parleremo insieme. Credo anche nel nostro riuscire a riprendere in mano dei nervi che invece potevamo forse usare in una maniera più prorompente, tra questo è il lavoro appunto, quindi credo che anche sia molto interessante per questo. Ma già sto facendo il giro al contrario, quindi prima appunto dico che questo libro è pubblicato da Castelvecchi, con prefazione e postfazione di due donne insomma note della Casa Internazionale delle Donne, la presidente Maura, se non sbaglio, Maura Cossutta e Giulia Rodano. Allora Chiara, la domanda classica è: come nasce questo libro? Chiaro, mi sembra, il legame con la Casa Internazionale delle Donne, raccontaci anche perché. Certo, grazie, innanzitutto sono contenta di presentarlo anche qui in radio, perché comunque credo che possa poi arrivare a tante persone. Sì, il libro ha già girato tanto, è uscito un anno fa, e me appunto sono contenta perché mi è sembrato che potesse essere proprio uno strumento di dialogo, di riflessione su delle tematiche che sono attualissime e importantissime, di cui è vero che spesso se ne parla poco, no? Affrontiamo poco il discorso anche di quella che è, possiamo chiamare, violenza di economica, no? La violenza di genere economica, che è enorme, che è ancora pesantissima, che lo è, ma anche più, insomma, il Covid, la pandemia ha messo in risalto ancora di più tanti divari. E quindi è stato uno strumento per, insomma, per far incontrare, no, anche mondi, realtà, e parlare di questo. Il libro nasce nel 2021 da una inchiesta che è stata voluta, commissionata dalla Casa Internazionale delle Donne di Roma, e proprio per un po' per capire che significato assume oggi il lavoro per le donne. È stata una ricerca che è stata fatta appunto nel 2021, nel periodo subito successivo alla pandemia, c'erano ancora forti gli strascichi del lockdown, e quindi comunque anche da questo punto di vista è un tema che c'è anche questo. Comunque in generale si è partito da un ragionamento, cioè su che cosa significa il lavoro in un'epoca di grande deregolamentazione e flessibilizzazione del mercato del lavoro. Cioè noi viviamo in un'epoca, ormai sono decenni che il lavoro è stato messo duramente sotto attacco. Oggi c'è questo fenomeno di cui ormai si parla tanto, il working poor, no? Il lavoro povero. Quindi c'è, cioè, di chi nonostante lavora, nonostante ha un salario, comunque fa fatica a sostenere le spese più basilari, quelle per la casa, quelle per il pagamento delle bollette, per un'alimentazione sana. Diciamo che ce la incartano un po', il working poor è quella cosa che bisogna dire, ci vogliono due stipendi. Esatto, no. Ci voglio cosa che emerge in working anche... poor significa che un lavoratore da solo col proprio stipendio non ce la fa proprio a far fronte alle spese della casa, a vivere dignitosamente, e quindi comunque quello che si è andato a generare negli ultimi 20 anni è una precarietà di massa. Sono aumentati i contratti atipici più 34% negli ultimi 10 anni, è aumentato l'incidenza del part time più 10% tra l'inizio degli anni 2000 ad oggi. E questo part time ovviamente comunque riguarda principalmente, il 60% riguarda le donne, in particolare si parla di un part time involontario per le donne. E oltretutto, appunto, negli ultimi 40 anni i salari in Italia in generale sono diminuiti, ma in Italia non solo sono stagnanti. E sono anche diminuiti, cioè negli ultimi anni sono diminuiti del 3%, quindi questo è un po' lo scenario generale da cui siamo partiti. Diciamo un attacco, un livellamento verso il basso generale, però questa che possiamo chiamare, che io chiamo aggressione del neoliberismo ai diritti dei lavoratori e delle lavoratrici, però colpisce comunque determinate categorie. Non a caso poi. Che sono sicuramente la componente straniera, i giovani, ma anche le donne. E quindi da qua, un po' da questa riflessione generale, insieme alla Casa delle Donne abbiamo iniziato questa ricerca per chiedere proprio che cosa vuol dire, che cosa significato assume il lavoro oggi, come lo vivi, quali esperienze hai, quali sono i tuoi immaginari, e queste sono un po' le domande. Quindi abbiamo messo in dialogo sicuramente i numeri, cioè le statistiche più generali. Infatti il primo capitolo di questo libro si apre con una serie di dati, di numeri, e per poi metterlo in dialogo però con le voci, con le esperienze. Quindi le stesse attiviste della Casa delle Donne sono andate a fare le interviste, insieme abbiamo scelto i temi, le domande da rivolgere a queste donne, e loro stesse sono state intervistatrici, no? Quindi, e poi insieme abbiamo riflettuto, quindi è stata sicuramente una ricerca circolare, che da cui sono uscite secondo me delle cose stra interessanti. E quindi Valeria, che siamo due ricercatrici, io sociologa, lei politologa, abbiamo deciso di metterle un po' insieme e dire ok, pubblichiamo un libro che sia comunque fruibile, divulgativo, e che possa diventare uno strumento per parlare di certe questioni. Quindi quello di cui parliamo è del lavoro, ma non solo il lavoro retribuito, ma anche il lavoro non retribuito, invisibile, il lavoro invisibilizzato. Ad esempio, guarda, questo lo voglio dire perché si parla spesso, no? Noi anche iniziamo in realtà così, con questa linea, no? Di come si è evoluta la partecipazione delle donne nel tasso di occupazione femminile nel mondo del lavoro dagli anni 70 a oggi, che sicuramente è aumentato, ma aumentato in che termini, in che settori, dove e come. Poi c'è da dire che negli anni 70 il dato sul tasso di occupazione femminile era comunque sottostimato, perché le donne all'epoca svolgevano quel lavoro domestico non invisibile, non in nero, quindi non censito dalle statistiche ufficiali. Quindi non è che le donne non lavoravano, le donne lavoravano, e come, hanno sempre lavorato e hanno sempre faticato, hanno sempre svolto doppi, tripli, quadrupli lavori. E tra l'altro, se non mi sbaglio, credo proprio che a livello nazionale il contratto a livello nazionale per il lavoro domestico è ancora uno dei più invisibili e retrogradi, cioè credo quasi che non esista un contratto nazionale per la categoria del lavoro domestico, ecco, questa la dice lunga nel 2023. Poi probabilmente magari spesso si è assunte da cooperative, non lo so. Oltre alla cooperativa, o c'è il rapporto di lavoro. Esatto, però non c'è, diciamo, un contratto nazionale di riferimento da cui poi non esiste. E quindi, insomma, quello che partendo da questa idea, noi, insomma, anche perché poi si parla di riproduzione anche del lavoro non retribuito e lavoro di cura, perché purtroppo viviamo ancora oggi, non è una cosa del passato, cioè ancora oggi ci troviamo, siamo immersi in una cultura estremamente patriarcale, non solo a livello familiare, anche proprio di come è organizzato il lavoro, e che comunque porta a pensare che siano con la componente femminile quella che più di tutte si deve sacrificare per appunto magari rinunciare al lavoro per svolgere determinate attività o affaticare. Infatti la maggior parte del lavoro, tipo un terzo del lavoro domestico, di riproduttivo, è svolto comunque dalle donne. Questo anche, quindi, poi in generale, questo si riconnette anche a un ragionamento che è quello di che welfare, che politiche sociali abbiamo in Italia. Abbiamo un welfare che, lo sappiamo, no, tutti i paesi del Mediterraneo si chiamano, quindi la Spagna, la Grecia, l'Italia, siamo dei paesi cosiddetto di welfare familista, cioè che delegano tantissimo, cioè il taglio alle spese viene fatto pesare, va a sovraccaricare le famiglie che si fanno carico di quelle di cui non si fanno carico le politiche. Ma oltre a questo, e poi sappiamo è sessista perché è alla componente femminile delle famiglie, ma poi è anche classista, perché anche qui c'è stata una grande privatizzazione e mercificazione del che ha creato un mercato privato della cura, quindi solo chi ha il privilegio di poter accedere per il proprio stipendio a questa a questi lavori di cura privati, che può essere la golf, la badante, la babysitter o altri servizi a pagamento, può continuare a lavorare. Chi non ha le possibilità deve decidere di interrompere il lavoro oppure comunque ridurre il proprio orario di lavoro, motivo per cui la maggior parte del part time è svolto dalle donne. Voi poi tutti questi dati, perché insomma avete intersezionato, come dire, una quantità di livelli veramente enorme, e tutti necessari però per avere poi, appunto, no, è inutile parlare di lavoro se poi non capiamo quali donne sono le donne laureate piuttosto che chi ha potuto studiare, che lavoro fa, chi si può permettere, per esempio c'è tutta una parte di chi sono le donne, appunto, che si permettono di fare dei lavori, che si possono permettere o riescono a trovare dei lavori attinenti a ciò che hanno studiato e chi no. Anche questo, per esempio, è un capitolo veramente inquietante, perché è veramente inquietante, guarda caso credo che si possa dire che appartiene molto alla classe anche, ecco, certo. Guarda caso. Qual è il metodo con cui poi avete messo insieme e cominciato a tirare un po' delle somme? Perché comunque avete, certo, usato un'apertura molto grande. Insomma, adesso io non sono proprio una che si occupa di lavoro nella vita o di economia, insomma, di queste cose, però indubbiamente quando poi le ricerche vengono fatte sul lavoro, di solito è tutto su tutto ciò che è visibile, mm-hmm, su tutto ciò che è contrattuale, su tutto ciò che è visibile, che è accertato, che è in ordine. E ahimè, il lavoro delle donne spesso esce abbondantemente fuori da questi argini, non solo quello delle donne, visto che ormai il mondo non è più così binario, e voi avete molto aperto invece questa ricerca. Esatto, noi diciamo innanzitutto è una ricerca posizionata ed è una ricerca che ha un approccio femminista, anzi transfemminista, intersezionale, nel senso che intersezionale perché analizziamo diversi fattori, cerchiamo di tenere insieme tutti quei fattori che vanno a generare divari e disuguaglianze e diverse opportunità, che sono appunto quello che possiamo dire genere, razza e classe, quindi non solo il fatto di essere donna o no, ma anche il fatto, magari, il titolo di studio, la classe di provenienza, il fatto di essere di origine straniera oppure italiana, insomma tutti questi fattori vanno intersezionalmente a determinare dei divari non solo nella vita, ma anche, appunto, nello specifico in questo caso nel lavoro, nella condizione in cui si trovano nell'ambito lavorativo. C'è da dire, voglio dire una cosa, quindi il genere donna non è stato come una categoria così assoluta. E poi una cosa che sicuramente magari manca anche in questa ricerca, ma che manca in generale anche ad esempio nelle statistiche, una cosa che non si tiene mai in considerazione sono tutta una serie di informazioni che riguardano le persone transgender, quindi le persone della comunità LGBTQIA+, quindi tutto questo aspetto, proprio non ci sono informazioni, non è un qualcosa di considerato, ma in realtà anche queste soggettività nell'ambito sociale, in quello lavorativo, che è spesso transfobico, subiscono tantissime microaggressioni, discriminazioni, ingiustizie. Questo ci tengo a dirlo, magari è un aspetto che non è totalmente che magari non emerge, ma non emerge anche per il tipo di donne che poi sono sono state scelte per fare le interviste. Noi cosa abbiamo fatto a livello metodologico? Abbiamo detto ok, questa ovviamente è una ricerca qualitativa, no? Quindi parte da un'analisi più generale di contesto, però poi sono interviste in profondità, quindi abbiamo detto ok, intervistiamo donne di diversa fascia di età, donne che svolgono diverse professioni e poi ovviamente anche sia di origine sia italiane, di origine straniera, ma anche magari donne che hanno migranti interne, no? Che sono nate in alcune regioni e poi migrate per motivi di studio e di lavoro in altre zone del centro del nord Italia, città o zone del nord. Quindi abbiamo un po' considerato questo e quindi poi dal dialogo, dalle interviste sono emersi tanti temi molto interessanti. Un altro aspetto metodologico importantissimo che ci tengo a dire, le donne intervistate sono 34, sono tutte donne che appunto che hanno queste caratteristiche che ho appena detto, quindi diversa età, diverso lavoro, qualcuna in pensione, qualcuna disoccupata. E sono donne che vivono a Roma, molto spesso non sono donne del mondo dell'attivismo, ma anzi, infatti poi magari ne parliamo dopo, anche abbiamo pure non solo capito qual è la loro condizione nel mondo del lavoro, ma anche le loro reti di supporto, le loro reti di prossimità, la partecipazione, ma magari ne parliamo dopo. Un'altra cosa importante sul metodo è il fatto che noi comunque ci distacchiamo da quel femminismo comunque neoliberista, cioè da quel femminismo che non mette in critica le condizioni strutturali di queste disuguaglianze, cioè quel femminismo compatibile con degli ideali neoliberisti. Noi da questo ci distacchiamo assolutamente. Perché? Perché innanzitutto non solo non mette in critica, non solo neutralizza l'azione conflittuale che c'è magari invece dietro tante che c'è nel femminismo reale, ma nei femminismi. Poi fa sempre questa immagine della donna forte che si fa da sé, che ha queste capacità individuali di farcela, di lavorare, che è donna brava, madre e anche donna in carriera, no? Che si deve... No, tacco 13, tagliere 24 ore mentre allatta, sale sulla sua macchina e nell'altra mano c'ha il telefono, no? Le donne devono rendere, devono essere brave madri, brave manager e poi fare una brava cena. Queste sono un po', no? Di questo qua stiamo puntando il dito su questo femminismo qua, che è un femminismo finto, cioè comunque no. Esatto, cioè no, perché noi pensiamo che solo appunto, come si dice, saremo libere solo quando lo sarà l'ultima donna. Quindi comunque non la libertà non può essere di qualcuna, deve essere generale, di tutte, cioè si devono andare ad abbattere i presupposti strutturali, sociali, economici, organizzativi che determinano lo stato di cose attuali. Quindi insomma questo è sicuramente un approccio di fondo di tutto il libro, della ricerca anche. Allora, io non so se vogliamo fare la prima pausetta. Va con bene. Feriado nazionale, questa okay. Sveglia, non abbiamo, in linea di massima comunque non abbiamo voglia di andare a lavorare o comunque di fare quello che chiamano lavoro, ci piacerebbe fare quello che ci piace, quello che siamo capaci, e il lavoro sarebbe un'altra cosa, no? Fare quello che ci piace, pensa che fino, e essere pure pagati, marò. Ci sentiamo tra un attimo. Me quiero matar, pensando que mañana tengo que ir a trabajar. El martes a la noche me quiero matar, pensando que mañana tengo que ir a trabajar. El miércoles no aguanto, salgo a bailar. Y el jueves todo el día me quiero matar. Me pesa la cabeza, el cuerpo no da más. Pero el viernes la sonrisa no me la pueden sacar. Todo se pasa volando y cuando me quiero acordar, es domingo a la noche. Me quiero matar. Hay que dejarle un día al fin de semana, porque así no alcanza. Hay que agregarle un día al fin de semana, el feriado nacional de la vagancia. Hay que agregarle un día al fin de semana, porque así no alcanza. Hay que agregarle un día al fin de semana, el feriado nacional de la vagancia. Me quiero matar, pensando que mañana tengo que ir a trabajar. El martes a la noche me quiero matar, pensando que mañana tengo que ir a trabajar. El miércoles no aguanto, salgo a bailar. Y el jueves todo el día me quiero matar. Me pesa la cabeza, el cuerpo no da más. Pero el viernes la sonrisa no me la pueden sacar. Todo se pasa volando y cuando me quiero acordar, el domingo. cinco minutitos más. No quiero ir a trabajar. No quiero ir a trabajar. No me gusta madrugar. Yo prefiero trasnochar y salir a bailar. Hay que regarle un día al fin de semana, porque así no alcanza. Hay que regarle un día al fin de semana, el feriado nacional de la vagancia. Hay que regarle un día al fin de semana, porque así no alcanza. Hay que regarle un día al fin de semana, el feriado nacional de la Insomma, non potevamo approfittare, non approfittare di questa canzone. E allora, una diciamo una cosa molto importante che io ho notato, no? Entriamo un po' nel merito di quello che poi queste donne hanno espresso, no? Quindi sicuramente il lavoro rimane una visto come la salvezza un po' del genere femminile, no? E qualsiasi sia la mia vita, se io so che lavoro, mi sento che sono più autonoma, sono più libera, lo metto tra mille virgolette, no? Perché comunque già mi inquieta un po' a me personalmente pensare che una donna si senta più libera dovendo lavorare, che non è una libertà, non è tempo per te. Però evidentemente ti senti più libera in quanto più indipendente da una situazione che era ancora più oppressiva, quindi se a te moriva tuo marito o quello se ne andava, tu potevi pure morire perché eri finita, parlo delle nostre nonne. Poi sicuramente questa cosa è cambiata, rimane il fatto che oggigiorno ancora le donne hanno il lavoro come, no, credo come arma per sentirsi un po' più autonome. Sempre che questo poi risponda a una possibilità di esserlo, visto quanto dicevamo prima, mm-hmm. No? Sì, esatto, infatti è vero, emerge tantissimo dalle interviste che questo insomma il principale pilastro del il lavoro è il principale pilastro della loro autonomia, cioè il lavoro è fonte di emancipazione, proprio lo dicono. Io non potrei mai smettere di lavorare perché non voglio dipendere da nessuno, dal mio compagno, da un uomo X o dalla mia famiglia di appartenenza. Quindi ancora comunque predomina questa idea di lavoro come insomma significato simbolico che riguarda la libertà, la costruzione di identità, di relazioni sociali. Però appunto ci chiediamo, questa libertà di che libertà parliamo? Cioè questa libertà, magari questa emancipazione mostra molte ambiguità, no? Dal momento che comunque le stesse donne poi che dicono questo, che insomma fanno emergere questa rappresentazione, questa idea, allo stesso tempo ci raccontano di grandissimo sfruttamento, il fatto di prendere bassi salari, quindi alcune addirittura devono svolgere, come dicevamo prima, doppio lavoro per poter arrivare alla fine del mese, oppure devono sono costrette alla convivenza per poter dire alla coabitazione, per poter far fronte alle spese della casa, non bastando appunto il salario che prendono. Comunque raccontano anche di grande affaticamento, no? Quindi di dover appunto far fronte al lavoro e altri impegni della vita, alla conciliazione, no? Quella che viene chiamata la conciliazione dei tempi di vita, di lavoro, della casa, dei figli, eccetera, eccetera. Quindi nonostante quello che emerge è questo: basse paghe, comunque un lavoro spesso anche non sempre riconosciuto, non sempre stimolante, anche una segregazione, no? Quindi magari una vorrebbe crescere, vorrebbe evolvere all'interno della propria attività lavorativa, invece si vedono segregate. Tutto questo quindi come si riesce a, no, come risponde a questa anche voglia di, però comunque necessità di emanciparsi, di essere autonome, di sentirsi libere, ecco, non dipendenti, non economicamente dipendenti, assolutamente non dipendenti. E uno degli aspetti pure che emerge di discriminazione è la maternità. Cioè la maternità è uno dei fattori di maggiore discriminazione, ci raccontano proprio, infatti a parte anche le statistiche ce lo dicono, lo dicevo prima, una donna ogni 4 lascia il lavoro alla nascita del primo figlio, e comunque solo, ad esempio, infatti i congedi parentali, un uomo ogni 10 si prende un congedo parentale, quindi sono sempre, no? È carino pure che poi gli uomini, leggevo che appunto anche questa difficoltà, che se si devono prendere un permesso preferiscono dire che devono portare la macchina dal meccanico piuttosto che per dire esatto. che devono andare a c'ho un medico che sta male. Esatto, perché magari... sembra che tu vieni declassato a un lavoro di cura che è quasi uno scempio. Esatto, perché culturalmente. Questo perché rifletta anche chi ci ascolta. Così. Esatto, questo esatto, lo dicono proprio piuttosto preferiscono dire vada, sto andando dal meccanico. No, questo anche perché questa struttura, se tu dici che vai dal meccanico e non fai il passaggio di rompere questa struttura e dici vado a prendere mio figlio. No? Una anche un modo di mantenerla in piedi. Ecco. Una mentalità estremamente patriarcale che è pervasiva proprio nella mentalità, introiettata profondamente nella mentalità di tutti, ma anche insomma tutti e tutte purtroppo spesso. E quindi insomma spesso chi sa, chi decide di anche di, a parte che poi spesso c'è anche la rinuncia alla maternità, la scelta libera anche di non essere madre, però poi anche molte donne ci raccontano, proprio alcune intervistate hanno denunciato proprio discriminazioni, demansionamento, pressioni al fine di aver ricevuto delle pressioni al fine di allontanarle dal luogo di lavoro, e quindi comunque insomma a questo si aggiunge anche la doppia presenza casa e lavoro, l'imperativo a impegnarsi in questo lavoro che, appunto, riproduttivo, che Silvia Federici definiva il più prezioso prodotto che appare sul mercato capitalistico, che è la forza lavoro, cioè quello che riproduce questa forza lavoro. Comunque insomma tutto questo, questa conciliazione di tempi di vita, emerge un po' questa narrazione, questa abilità di, no, noi diciamo solitarie equilibriste, e ovviamente la questione non può comunque essere ridotta a una mera conciliazione, ma probabilmente si deve un po' cambiare l'organizzazione neoliberista del lavoro e di questa concezione culturale. Quindi è importante, noi parliamo di genitorialità condivisa e quindi di uno scardinamento di questa divisione sessuata dei ruoli nel lavoro e all'interno della famiglia, e poi anche riorganizzazione proprio della vita lavorativa, una riduzione magari dell'orario di lavoro anche a parità di salario, che non è così utopica perché comunque la stanno anche già facendo in alcune parti del mondo, e oltretutto anche la questione sicuramente poi offrire più servizi pubblici gratuiti, anche questo potrebbe aiutare a tutto questo discorso qua della conciliazione, della difficoltà, no, dei tempi di vita. E quindi sì, che poi probabilmente, appunto, no, capisco che casomai tu hai la maternità e dopo tot mesi, insomma, sicuramente la maternità è insomma anche molto deflagrante nella vita di una persona, è un cambiamento notevole tornare comunque poi al lavoro, e va bene, c'è chi il lavoro lo interrompe dopo la gravidanza, dopo il primo figlio, deve tornare ad affrontare il mondo del lavoro o il mercato del lavoro. Mm-hmm. Insomma, di media penso che sia una cosa abbastanza spaventosa, proprio perché qui c'è questa cultura dove tu già sai che bene o male qualche frustrazione ti aspetta, insomma. Esatto, ecco. E poi noi insomma da questo parliamo anche, insomma le intervistate hanno comunque elaborato molte riflessioni interessanti sulla questione appunto del tempo liberato, del tempo per sé che è importantissimo, perché non parliamo solo di casa, famiglia, cioè parliamo esatto. del tempo per sé, cioè perché questo... anche la maternità, insomma, se qualcuno si fosse ricordato, noi non nasciamo madri. No? Il tempo per sé è il tempo per noi singoli esseri, cioè la maternità non è tempo per noi, è una fase in cui c'è un'evoluzione, ma poi ritorna ad essere un lavoro di cura che ci succhia. Esatto. Ci succhia e ci proprio, e quindi non rientra nel tempo per sé. Sia chiaro, il tempo dei figli non è tempo per sé. No, perché infatti spesso poi ci raccontano, noi abbiamo proprio, ci siamo fatti anche descrivere una giornata tipo, no? Quindi raccontano questa, cioè delle vite in cui si perde proprio la centratura rispetto a se stesse, sempre magari indirizzate a correre di qua di là al lavoro, poi prendi figlio, poi di là, oppure comunque sempre occuparti di una persona non autosufficiente, può essere la madre anziana se non è esatto, il figlio, esatto, perché non sono solo i figli, questo eh? Emerge esatto, questo emerge moltissimo, cioè ad esempio sulla questione tempo liberato, tempo per sé, che in questa intervistata dice: il lavoro mi ruba la vita, tutti avrebbero diritto ad avere tempo per se stesse, ma questo in una società ideale, e noi non viviamo in una società ideale. Poi continuo: non ho tempo per me stessa, questo ha conseguenze disastrose sui rapporti personali, sulle amicizie. E quindi, insomma, cioè, questo tema emerge forte, così come emerge forte però anche il rischio della trappola della passione, no? Quindi di questo anche questione comunque sfumare un po' i confini tra il tempo del lavoro e il tempo libero. Questo sconfinamento, spesso questa continua piena disponibilità anche per crescere da un punto di vista professionale, accettare anche delle condizioni che possono essere anche il lavoro gratuito, o comunque far sì che poi si accaparrino le nostre capacità, le nostre emozioni, le nostre competenze per metterle a profitto, no? Tutto questo spesso siamo esatto. Cioè magari non c'è nemmeno piena consapevolezza di questi meccanismi che in realtà succedono, e quindi ci troviamo in un mondo, ma che lo dice, non lo dice, emerge anche da altri studi, da altri libri come quello delle grandi dimissioni di Francesca Coin, in cui ci sono queste dipendenti, no? Le lavoratrici dipendenti che devono mostrare, o lavoratori dipendenti che devono mostrare autonomia e intraprendenza, e invece lavoratori autonomi, liberi professionisti, invece devono sottostare a delle regole come dipendenti. Insomma, questo c'è un po' la contraddizione, e quindi spesso la cosiddetta classe precaria accetta di avere una passione per il lavoro, scivolando però in un regime di lento sfruttamento che ci toglie proprio tempo per la nostra vita, per noi stesse, no? Quindi questo sicuramente sono dei temi che emergono, emergono anche tra le righe, nel senso che poi magari non sempre c'è proprio piena consapevolezza di questi meccanismi di cui siamo anche vittime, no? E, insomma, beh, sicuramente poi il tempo scandito dal lavoro inficia, diciamo, influenza tutta un'altra serie di meccanismi delle nostre vite. Parliamo dei tempi di corsa quando parliamo della nutrizione, quindi parliamo di quanto sarebbe bello, di quanto la velocità, il correre, il non avere tempo poi ci impone degli orari, per cui, no? E quello è tutto dettato dal lavoro. Esatto. Poi un'altra questione che abbiamo indagato in questa ricerca, in questo libro, è proprio la dimensione del potere e delle gerarchie in un'ottica di genere. Quindi abbiamo chiesto a queste donne se ritengono di aver incontrato differenze legate al genere con riferimento alle relazioni e nelle gerarchie professionali, no? Quindi le donne, a volte c'è chi dice che le donne in posizioni apicali sembrano mostrare un approccio più comprensivo, più collaborativo, altre fanno una narrazione proprio di chi comanda e chi deve seguire, no? E quindi spesso è proprio il ruolo, no, che ti genera atteggiamenti anche interiorizzati, stereotipi maschili e maschilisti anche, no? Di chi ricopre certi ruoli, quindi chi magari ha una posizione dirigenziale poi a volte interiorizza queste logiche anche competitive, questi codici culturali tipici di modelli androcentrici che governano proprio tutto il nostro mondo del lavoro. E quindi, insomma, questo è un po' quello che esce fuori da questo. E poi, insomma, un altro aspetto un altro aspetto importante che abbiamo affrontato, che è il discorso della pandemia, no? Sempre per citare la Coin, la pandemia è stata un catalizzatore di un processo sicuramente di disaffezione al lavoro, però ha anche messo in risalto quelle che erano proprio ancora di più certe crepe del sistema, quindi di queste donne che si sono ritrovate a essere contemporaneamente madri, lavoratrici e comunque magari anche insegnanti, perché aiutavano nei compiti, perché c'avevano i figli in DAD, no? Guarda, quindi ti interrompo solo un attimo, perché al telefono era un'ascoltatrice che giustamente ha detto: scusa, ma non ci riesco a non dire questa cosa. E lei diceva il fatto che i governi che gli ultimi governi si siano susseguiti abbiano sempre puntato il dito sull'importanza di fare dei figli italiani. Lei dice, a parte il fatto che poi per ogni figlio un bambino europeo condannerà a morte probabilmente un bambino di un altro continente, lei diceva questa fissa c'è perché cercano appunto di cioè, dice, una madre tutta la vita è una donna che ha lavorato, però giustamente insomma lei diceva come si torna a parlare dell'importanza della maternità, no? Questi venti che tirano, proprio perché appunto non solo legato alla riproduzione della forza lavoro, ma insomma poi anche su questo avete parlato tanto, no? Sì, sì. Avete scritto tanto, quindi insomma vedi, però certo, no, arrivano le telefonate, meno male, no, è importante che si crei dibattito anche in radio, insomma ripeto, cioè comunque questo è soprattutto, questo libro è uno strumento proprio per questo, per confrontarsi su tanti temi. Infatti diciamo che ogni capitolo affronta un tema che potrebbe essere un libro a sé, no? Quindi sicuramente tocca tanti temi, potrebbero assolutamente essere approfonditi, non si esauriscono lì, però sono tutti spunti, no? Io ti ho interrotto, avevi attaccato diciamo appunto che il Covid riportava a galla tutte quelle che erano insomma era un po' la cartina di tornasole del fatto che comunque un sacco di appunto di questioni le donne tornavano a essere non solo le donne che lavoravano in smart working, ma allo stesso tempo con una mano cucinavano e probabilmente erano anche le insegnanti, perché avevano i figli in appunto a scuola, a casa e quindi a seguire la didattica, no? Esatto, a parte la pandemia che proprio ha fatto perdere, cioè i cali più rilevanti ci sono state proprio proprio soprattutto ha avuto effetti negativi sul tasso di occupazione femminile, ma perché ovviamente i cali più rilevanti ci sono state in tutte quelle attività femminilizzate, no? Sappiamo che ci sono dei settori femminilizzati, quindi può essere i servizi domestici, gli alberghi, la ristorazione, il lavoro di cura, no? Che in quel momento si sono fermati e quindi lì hanno proprio avuto proprio più probabilità le donne di perdere il lavoro o comunque anche di rinunciarci, no? Si parla anche di grandi queste dimissioni che hanno soprattutto riguardato le donne, magari spesso anche involontarie. E invece lo smart working c'è un'idea contrastante, c'è anche chi ovviamente dice no, beh, è utile, perché no, senza rendersi conto, dice io almeno mentre facevo la riunione potevo stendere il bucato, potevo fare questo, potevo fare quello, senza magari rendersi pienamente conto che poteva diventare anche uno strumento di maggior autosfruttamento e controllo, quindi costringere innanzitutto tempi di lavoro più lunghi e non retribuiti, e poi comunque andare proprio a sconfinare, no? A confondere i confini tra il lavoro produttivo e il lavoro per sé, o il lavoro di cura, il lavoro riproduttivo. Quindi insomma sicuramente il rischio, no? Anche individuato da tante altre autrici, ricercatrici femministe, in cui lo smart working potrebbe essere un ulteriore strumento di settorializzazione del lavoro secondo il genere, o comunque avere conseguenze proprio di peggioramento delle condizioni di lavoro e di pressione di carico del lavoro in generale. E inoltre tutto ci sono anche rischi dell'isolamento, quindi dell'indebolimento anche di quelle capacità organizzative di rivendicazioni che comunque puoi trovare negli spazi, cioè che trovi negli spazi in cui ti confronti, in cui incontri altre persone, no? Quindi se stai da sola, chiusa con te stessa, probabilmente non è più difficile. È più difficile che si sviluppi questa capacità critica e anche di auto-organizzazione. E proprio a proposito di questo, infatti, il libro si chiude con quest'altro aspetto qui, perché poi noi abbiamo voluto anche capire, ma voi avete delle reti di prossimità, delle reti di supporto, cioè tutto questo, ok, questa è la vostra vita, questo insomma con un focus ovviamente, ripeto, sul lavoro, però sull'esistenza in generale a 360 gradi, però poi quindi come tutto questo, come si ripercuote, no? Sulle capacità rivendicative. E un po' il quadro che ne esce fuori è che nonostante poi c'è anche consapevolezza, no? Cioè la mostrano, ce la raccontano, queste consapevolezza delle discriminazioni che subiscono, del desiderio anche di trasformare questa cultura dominante, patriarcale, pervasiva, però comunque manca quel senso di poter cambiare, di potere, cioè di potere, dico sempre questa, no? Di potere nel senso positivo del potere, cioè di poter trasformare, cambiare le cose, poter fare qualcosa. Quindi magari c'è qualcuna che partecipa, però in generale quello che prevale è un disimpegno politico, una sfiducia totale non solo verso la classe politica e i quadri intermedi, ma anche quindi i partiti e i sindacati, ma anche verso i le mobilitazioni dal basso, e quindi in qualche modo si cerca piuttosto un riflusso al privato, c'è un riflusso al privato, si cerca una salvezza solitaria e non si riescono a trovare quelle forme collettive, quel modo di confrontarsi, di capire io sto così, te stai con lì, siamo tante a stare in un certo modo, cioè abbiamo chiare le ingiustizie, abbiamo chiaro quello che non funziona in questo sistema, come lo possiamo trasformare, cioè come possiamo organizzarci, mettere insieme delle riflessioni collettive per un percorso comune di trasformazione dello stato di cose attuali. Questo come fare un po' manca, e forse poi anche la domanda, lo stimolo che pure che dà magari questo libro per ragionarci, no? Per domandarci come fare a intercettare, a trasformare positivamente questa insoddisfazione. Sì, perché poi l'abbiamo visto, laddove ci sono delle donne che rompono poi c'è un grosso seguito, sicuramente questo manca, c'è sicuramente una responsabilità istituzionale, questo lo sappiamo, forse anche noi ci possiamo fermare un po' di più a ragionare su questo, credo, no? Nel senso che poi ecco siamo un po' no? I precursori di tante questioni, forse anche noi siamo un po' in ritardo su questo, sicuramente lo siamo anche, voglio dire, lo abbiamo sicuramente fatto con tantissimi temi che abbiamo ripercorso adesso, parlando per esempio del grande regresso forse che c'è stato in tante cose col blocco del Covid, e la fatica poi, no, di recuperare quello spazio-tempo perduto o comunque regredito in quegli anni di chiusura, e in questo ahimè credo di poter dire che ci stiamo dentro anche noi, no? Un po' in questo tipo di analisi forse siamo un po' silenti. C'è un'altra cosa secondo me importante pure, anche la narrazione da una parte, nel senso che da un certo punto in poi secondo me ci hanno voluto far credere, pure dagli anni Ottanta, vado pure indietro nel tempo, probabilmente ci hanno fatto credere che non c'era un soggetto collettivo che poteva tutelare, per dire, i diritti, no, dei lavoratori e delle lavoratrici, e che mancava, no? Quindi in qualche modo forse le persone si sono anche nel tempo iniziate a sentire come appunto sole, come se non avevano un soggetto collettivo, un'organizzazione, delle organizzazioni, delle reti, e quindi in qualche modo trovandosi in questo riflusso privato, in questo isolamento, poi quello che succede è che le persone, i lavoratori, le lavoratrici, non solo in generale, si sentono più ricattabili, si sentono più sono più manipolabili, perché tutta questa narrazione, no, il farci credere che siamo soli è un po' funzionale al sistema, che ci riesce, se stai isolato il sistema ti controlla meglio, e quindi facendoti credere che non hai nessuno su cui contare, che tanto le cose non le cambi, allora poi lì, no, sei più vulnerabile, ti senti più solo, ti senti sfiduciato, è un po' questo, cioè comunque emerge. Sì, e io credo che appunto che una costante sia anche leggendo un po' le testimonianze, le parole dirette che avete messo nel libro delle intervistate, è come se ci fosse poi anche un po', appunto, che poi se tu vivi in questo paese è come se ce l'avessi di default queste convinzioni, ormai fanno parte un po' del nostro portato culturale, no? Tu ti porti avanti che farai più fatica, è come se già tu sai che partirai, che dovrai faticare di più, questo sicuramente già è un livello di frustrazione, che già approcciarsi al mondo del lavoro comunque non è proprio incoraggiante, le donne lo fanno senza scoraggiarsi, lo abbiamo visto, pagando tutto il prezzo carissimo che si trovano a livello di precarietà, di difficoltà sul posto del lavoro. Ci sono molti racconti di frustrazione proprio, no? Anche al di fuori del capitolo in cui appunto parlate delle aspirazioni che queste donne hanno, e quando poi entrano materialmente nel mondo del lavoro devono ridimensionare, imparare a ho potuto studiare, mi sono potuta permettere di studiare quello che mi piaceva, poi l'ho dovuto accantonare e mi sono dovuta dedicare ad altro, perché e comunque questo succede in tutti gli scalini. Quindi una volta entrato nel mondo del lavoro ti risuccede, se scegli di fare una scelta per esempio di maternità, messa casomai fatta semplicemente a livello umano e non paragonata al tuo livello di carriera, no? O altrimenti il lavoro è quella cosa che ti obbliga di dover avere la razionalità e di pianificare la tua vita un po' in relazione a questo, ecco, che insomma. Io leggerei uno proprio a proposito di questo, uno stralcio, poi magari possiamo pure mettere una canzone. E leggo questo stralcio di questa donna di 34 anni che fa due lavori e dice: lavoro attualmente sia in una scuola privata che in una scuola pubblica. Il primo lavoro lo faccio da qualche anno e l'altro è iniziato in maniera più sporadica, e poi quest'anno è stato il primo che ho svolto per intero sino alla fine. Prima erano solo supplenze brevi. Il contratto della scuola è terminato perché è un contratto a tempo determinato e nell'istituto privato sono a partita IVA. In questo momento lo stipendio dell'istituto privato lo percepisco ogni 3 mesi. La scuola è finita e dunque non percepisco nulla. Con due lavori non ce la faccio neanche a vivere dignitosamente come sarebbe giusto. Insomma, questa cosa che bisogna lavorare tantissimo per sopravvivere, proprio la eviterei. Io vengo da una famiglia in cui il lavoro è importante, ma non può esserci sfruttamento. Insomma, mi sembra veramente, no? Disarmante, più chiaro di così si muore. Allora, io cerco una canzoncina, poi direi che andiamo a tirare un po' le conclusioni, ne metto una a caso, se no mi perdo, e andiamo a tirare un po' le conclusioni di questo libro. Que vuelvas, yo quiero estar bien lejos de vos. Allora, torniamo in voce. Io intanto ricordo che siamo in studio con Chiara Davoli, che insieme a Valeria Tarditi hanno scritto appunto questo bel libro importantissimo per la Castelvecchi, Il lavoro diseguale, voci, esperienze e immaginari delle donne. E allora, siamo in chiusura. Chiara, che altro vogliamo aggiungere su questo libro? Secondo me abbiamo detto tante cose, tante altre se ne potrebbero dire, ma soprattutto spero sempre, io non credo sia un libro completo, affronta tanti temi, quindi non può esserlo di per sé, perché abbiamo visto, insomma, parte con questa analisi del un po' più generale, no? dati che riguardano l'Italia in generale, comunque anche delle statistiche europee, un confronto principalmente europeo, per poi andare a mettersi in dialogo con quello che sono proprio le voci, le esperienze, quindi con un approccio che è proprio quello del raccontare, del partire da sé, della propria esperienza vissute personali, per fare delle riflessioni di carattere più generale, che appunto riguardano cosa vuol dire il lavoro oggi, quali sono le aspirazioni, le condizioni materiali, le disuguaglianze di genere tra lavoro produttivo e riproduttivo, gli impatti della pandemia, insomma le disuguaglianze, cioè diciamo la gerarchia, il potere e la partecipazione politica. Quindi i temi sono tanti, ma gli spunti potrebbero esserne ulteriori, quindi comunque sempre per ampliare, insomma, il dibattito. Poi si parla anche una cosa forse che non abbiamo detto prima, così vorrei accennarla, è anche di queste microaggressioni, no, che emergono, che ci raccontano anche nell'ambito del lavoro, quindi di chi deve alzare la voce più forte per farsi sentire, no, all'interno di un contesto estremamente androcentrico del lavoro, estremamente androcentrico, estremamente comunque macista, come lo è anche altrove, perché quello che succede al lavoro è una riproduzione forse in piccola scala di quella che è la società in cui viviamo e che dobbiamo sicuramente cambiare, a partire poi anche proprio questa cultura che abbiamo introiettato. E quindi appunto, infatti, una frase che dice il libro, in cui scriviamo proprio: bisogna ripensare profondamente la visione culturale legata ai ruoli di genere e poi riorganizzare la vita lavorativa. Non è sufficiente offrire servizi per le famiglie con l'obiettivo di raggiungere una piena occupazione delle donne, perché molte attività domestiche di cura non sono comunque delegabili al mercato o allo Stato, e questa comporta comunque un duplice impegno che spesso ricade esclusivamente sulle donne. Quindi risulta importante, diciamo, ristrutturare il tempo del lavoro, prevedendo anche un reddito che sia indipendente da esso, in modo da liberare quello di vita, non solo per prendersi cura della propria famiglia, ma anche per se stesse, per coltivare i propri interessi e partecipare alla vita sociale e politica. E così concluderei, insomma. Così concluderei, e se poi le donne avessero questo tempo per trovarsi insieme e parlare, potrebbero veramente fare delle sovversioni totali. Troviamolo. Troviamolo, prendiamocelo, questo rimane così. Come appunto, veramente grazie per questo libro, perché grazie. Penso che sia veramente veramente importante per ritornare a riprendere un po' le fila di questi temi, per rendersi conto anche di tanto che è accaduto dal Covid in poi, perché appunto, insomma, un po' quando succedono questi eventi totali poi ci vuole il tempo di tornare a parlarne. Credo che questo libro sia un input grandissimo. Chiara Davoli, Valeria Tarditi, Il lavoro diseguale, voci, esperienze e immaginari delle donne, per la Castelvecchi. Chiara, veramente grazie. Grazie, spero di ritrovarti qui a dover, insomma, ancora approfittare non solo del tuo sapere, ma anche, insomma, di questo scritto bellissimo, che potete trovare comunque in tante librerie. Sì, assolutamente. In maniera molto semplice, e quindi veramente grazie ancora. Grazie. E, insomma, ringraziaci anche, insomma, la tua Valeria. Assolutamente, anche non Valeria è qui, mi dispiace. E la Casa Internazionale delle Donne, che insomma, sì, diciamo che ha dato così l'input poi per questa ricerca, ma insomma che voi avete completato, direi, in modo egregio. Quindi grazie, un grazie alle donne che hanno resistito, che continuano a resistere nei posti di lavoro, perché questo, diciamolo, creare, insomma, anche creare fastidio nei posti di lavoro, puntare piede, alzare la voce, è un compito in più, è una forza in più, è un impegno in più che una deve mettere nel proprio lavoro. Ma insomma, sono state queste poi le crepe che le donne hanno creato, dove le donne poi sono riuscite a entrare. E grazie anche a tutte queste donne, queste 34 donne che abbiamo intervistato, che si sono volute raccontare, che comunque non è scontato. Allora, grazie ancora, io vi lascio con Sara Ebbe, Bolletta Perro, ci sentiamo tra un attimo. E smoking marijuana para ver si aclara. Drinking agua mala para relajar. Pensar con la mirada, estar sin hacer nada. Así, así, oh. Inconducente de palabra. Lo que dice no me sirve y lo que hace abracadabra. Tus frases son el hit de este verano del demonio. Resuenan en mi cuerpo agujereado y se meten en mi sueño. Rebotan y me aplastan, son pesadas. Como camiones de ilusiones viejas, ondas de vidas pasadas. Qué pesadas, maldigo todo, como Violeta. Que en paz descanse, que no me canse. Y me encuentre yo con una 9 o una 30. Porque haría, como Violeta. Disparo aro, folclore vivo de esta tierra. Incandescente luz dorada, potencia que potencia. A todo el mundo en un mismo ánimo. Tu mamá me mima, a vos te vigila y a mí no. De este pozo salgo corriendo. Esta opresión me convirtió en atleta. Corro como el agua, los pensamientos pasan. Los voy dejando atrás. No es lo mismo con los sentimientos. Una imagen en un imán. Al frente van, en procesión. Del inconsciente y su religión. No me dejes, oh yeah. Te di un lugar, te di mi amor y te di de comer. Te lo pido bien. Vos me soltás la mano, sos una piedra de agua mala para relajar. Pensar con la mirada, estar sin hacer nada. Así, así. Cuando la noche empieza de día, termina los dos o tres días. Calavera busca en cuclillas una bolsilla de la que brilla. Pero como no la encuentra, ahí se da cuenta y se apilla. Al filo del vidrio cortado saca una punta y te acuchilla. Estamos haciendo un fuego, estamos haciendo cositas. Te corre desde invisible, yo te conozco, mamá carita. Voy viendo actitudes mientras me hago la tontita. Hilos entre la gente, yo tejo redes y tú te jodes. Nos conocimos por la Sara, dijo la Laura, sos pura aura. Vos ya no tenés karma, te felicito, quiero tu alma. La quiero para amamantarla, mamasticarla y amamamarla. Y amamamarla. Me dejes, oh yeah. Te di un lugar, te di mi amor y te di de comer. Te lo pido bien. Vos me soltás la mano, sos una piedra.